Oh, colega estimado a barra e paso, como escutas a resposta minha? Ela! Casas albergues de onigenia de ola leo estilas tundo arraso. Ema! E Tiago Zula tem saladia da guerra gado tiro vato acaso. Ema! Que l'utilizzo che padrona brita l'uva che tu e non sei buona. E la Gene il drago, Willa. Dame di gida se dame di del dormire, Willa. E si vaghe su casu bi e su giago, Willa. E ai gue deve se ubbidire, Willa. Proite di gloria se ti bragasan, Ema! Mi dici manco de o non de giagas, Ema, Ema, Maroia, Lasciami onestamente costruire o budrone no feta s'arrogante. Ema! Mi ha sanato umano abitante, ludro misori schida e poli schide. Ema! A chi non resessi da dormire li voto dare un tranquillante. Ema! E da chi gusto da buffa di gue tanto cantu che il seo dormi il tuo. Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema! Ema